Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di giovani e anziani, parliamo di generazioni, ma di generazioni in azienda. Questo è il titolo del libro di Maria Cristina Bombelli. Buonasera, dottoressa Bombelli. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Maria Cristina Bombelli è fondatrice della società di consulenza Wise Growth, specializzata nella gestione della diversità, presidente di una ONLUS ed ha molte esperienze nel campo anche accademico e ha scritto questo libro guardando, come dice il titolo, al problema generazionale nell'ambito delle aziende. Il sottotitolo è Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse. Ecco, si parla molto, almeno del tema dell'invecchiamento, della popolazione, dei problemi conseguenti a livello previdenziale, a livello sanitario, si parla meno dei problemi all'interno dell'azienda, all'interno quindi della società, di questi cambiamenti demografici che stanno avvenendo in maniera anche abbastanza rapida all'interno soprattutto della società italiana, dove peraltro il tasso di natalità è uno dei più bassi d'Europa. Allora, dottoressa Bombelli, perché occuparsi del tema delle generazioni in azienda? Diventa, come già diceva lei, un tema molto importante per il futuro. La prima considerazione è che ci sono sempre stati problemi generazionali, infatti il sottotitolo, no, con il vecchio proverbio ci ricorda che comunque abbiamo sempre avuto questi problemi. Il tema è che la generazione è formata, perché mentre l'età è un tema individuale, la generazione è formata sulle esperienze significative che avvengono in un gruppo tra i 18 e i 25 anni. Quindi noi abbiamo delle generazioni, diciamo, più forti, nel senso che sono imprintate da eventi emotivamente coinvolgenti, quelli che hanno fatto la guerra, quelli che hanno fatto il 68, e generazioni tra virgolette più deboli, quindi gruppi meno coesi dal punto di vista dei valori e delle idee, che però hanno un'influenza. Quindi questo ci tenevo a dirlo innanzitutto, come perché parlare di generazioni, perché questi gruppi poi hanno dei modi di ragionare, dei modi di parlare e dei valori che sono differenti dagli altri gruppi. Ecco, quindi spesso si dice gli anziani portano l'esperienza, i giovani portano l'innovazione. Forse è una logica un po' schematica, ma che dà un po' l'immagine di quella che è la realtà. Sì, ed è proprio questo che noi abbiamo cercato di verificare, cioè abbiamo cercato di verificare gli stereotipi di età, perché uno stereotipo può essere appunto che il giovane porta innovazione e il vecchio invece è ripiegato. Ecco, questo noi abbiamo preso un po' la letteratura americana, abbiamo poi diviso in azienda le tre generazioni più significative, che sono i baby boomers, la generazione X e soprattutto la generazione Y, questi nuovi giovani, e abbiamo cercato di capire se effettivamente corrispondeva quello che accade nelle aziende italiane alla letteratura e un po' agli stereotipi. Ecco, in questa prospettiva si dice spesso che i giovani sono un po' bloccati perché gli anziani non lasciano il lavoro, anzi adesso con questo allungamento dell'età pensionabile gli anziani, i sessantenni, restano in azienda più a lungo. È vero questo, che ci può essere questo conflitto generazionale tra gli anziani e i giovani? Tema sicuramente di presenza e di difficoltà, diciamo, sul turnover, su queste cose, però credo che il vero problema siano le competenze, cioè c'è un disallineamento, questo in generale in Italia, tra le competenze richieste delle aziende e le competenze poi che il mercato esprime. In particolare quello che viene fuori dalla ricerca è che ci possono essere poi dei conflitti, sicuramente di valore, tra questi giovani, in particolare i giovani sono proprio diversi, e quindi non è tanto un tema quantitativo, anche se nella ricerca emerge che c'è una maggiore presenza della generazione X, quindi quelli vecchi sono stati un po' cacciati dalle imprese, diciamocelo chiaro, nei processi di ristrutturazione, mentre i giovani entrano poco. Quindi c'è come un'ipertrofia della generazione X che la sta facendo un po' da padrone. Ma questo anche perché le regole attuali prevedono che in azienda uno ci sia o non ci sia, non ci sono delle formule di transizione, di accompagnamento, quasi di capacità per esempio attraverso il part time, di assecondare un po' un'uscita, diciamo, graduale dal lavoro e magari anche affiancando i giovani che entrano in azienda. Allora, nelle aziende aziende che stiamo vedendo qualcuna ci sta pensando, ma sono ancora troppo poche. Le criticità sono, come diceva lei, proprio sul segmento in uscita. Quindi chiaramente la riforma pensionistica ha portato ad allungare il lavoro di 5, 6, 7 anni. Devo dire che questi nuovi vecchi sono meno vecchi di un tempo, se mi consente, cioè lo vediamo anche, no? Dimostriamo meno anni, siamo più in salute, quindi non è un dramma quello del continuare il lavoro. Quello che abbiamo visto come drammatico in questo segmento è l'insicurezza. Loro dicono: bene, diteci però quali sono le regole nuove, e tutto sommato però, soprattutto in posizioni interessanti, sono abbastanza motivati. Il problema vero sono i giovani. I giovani hanno proprio una mentalità diversa rispetto all'equilibrio vita-lavoro, ma tanti, quasi tutti, quindi loro non vogliono più lavorare tanto come la generazione precedente e si vogliono un po' divertire, quindi chiedono anche che il lavoro abbia in sé una parte di divertimento. Questo tema dell'equilibrio vita-lavoro, che un tempo era solo delle donne per esigenze più pragmatiche di conciliazione con la famiglia, in realtà i giovani, uomini e donne, lo stanno portando molto forte in azienda. Allora, il tema della flessibilità che lei evocava potrebbe andare assolutamente bene sia sul segmento anziano, perché magari si alleggerisce il lavoro negli ultimi anni, ma anche nel segmento giovane, che sinceramente non vuole lavorare così tanto come abbiamo lavorato noi. Ecco, indubbiamente c'è dei giovani forse l'esigenza di cercare dei modelli nuovi, non hanno più quel fervore della ricostruzione che c'era nelle generazioni più anziane, vogliono trovare magari delle nuove possibilità di lavoro, e questo spiega forse anche questa tendenza ogni tanto, quando non si riesce a trovare la propria posizione, allo scoraggiamento. Si dice che aumentano i giovani scoraggiati. Sì, diciamo che forse sono due, è un combinato disposto in qualche modo, sono due processi che confluiscono. Da un lato loro che sono un po', come diceva qualcuno, che scelgono, non sono più, come dire, il lavoro tanto per il lavoro o per guadagnare. Io le ho detto all'inizio la definizione di generazione, perché è importante capire che non è una scelta ideale o ideologica. Loro sono cresciuti in un mondo diverso. Come diceva lei, è evidente che quelli che sono usciti dalla guerra volevano comprare la 600, comprarsi la casa. Oggi certo, moltissimi ragazzi hanno la casa e hanno la 600, non hanno più la 600 ma hanno ben altro. Certo, ci sono quelli che non ce l'hanno, ma stiamo parlando della maggioranza dei ragazzi che studiano. Sono abbienti, sono affluenti, e quindi il bisogno fondamentale non è quello di base, ma sono altri bisogni. Questo bisogna capirlo, perché non è un tema sanzionatorio, no? Certo. Questi giovani non hanno voglia di lavorare. Certo. Sono nati e cresciuti in un mondo diverso, e se si apre questa prospettiva si riesce più facilmente a comunicare tra generazioni. Poi c'è sicuramente il tema più italiano della non meritocrazia, della non valorizzazione del talento, ma questo davvero è un tema più generale che travalica la problematica generazionale. Grazie a Maria Cristina Bombelli. Comunque, gestire le generazioni, istruzioni per l'uso, è il primo capitolo di questo libro, quindi per approfondire appunto questo tema del rapporto generazionale, un rapporto che può avere anche tanti valori positivi, anzi deve avere tanti valori positivi, indubbiamente è utile affrontare questo problema. E allora il libro di Maria Cristina Bombelli è Generazioni in azienda, se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse, edito da Guerini e Associati, sono 204 pagine per 22 euro. E dopo aver parlato delle generazioni d'azienda, guardiamo un po' al di là dei nostri frontieri con due libri che parlano di Francia e di Spagna, due libri completamente diversi uno dall'altro. Il primo è Testamento de España di Liberi Libri, è un manoscritto del XVIII secolo che racconta in maniera molto ironica in fondo le caratteristiche, i caratteri del paese. Il secondo è La Francia di Hollande, il presidente francese è sulle prime pagine dei giornali per tutt'altre vicende che non quelle politiche e economiche, ma questo libro edito dal Mulino racconta appunto la realtà politica ed economica della vicina Repubblica. E allora il Testamento de España, un manoscritto del XVIII secolo riesumato, un manoscritto che è praticamente un saggio ironico sulla realtà spagnola, e scrive appunto l'editore: quello che ci sentiamo con certezza di dire è che questo esile e fragile scritto concepito 2 secoli e mezzo fa, chiunque ne sia l'autore gode ancora di buona salute. salute. Ci parla e ci aiuta a riflettere sulla inguaribilità di alcuni vizi dei popoli, specie mediterranei. Ed è appunto questo testamento, in pratica personalizza la realtà della nazione e dà delle raccomandazioni per come la nazione può continuare sulla strada che ovviamente è sottilmente criticata, della crescita della logica dello Stato, della crescita dei privilegi, della crescita della politica di relazione, dell'abbandono del merito, di tutte quelle cose che contraddistinguono il declino del paese. Scritto 2 secoli e mezzo fa, è comunque molto significativo. Ne leggo solo un brevissimo stralcio. Ordino di accrescere il numero degli impiegati delle amministrazioni doganali dei tabacchi, per cui i posti di lavoro si sceglieranno in modo specifico i contrabbandieri, che esperti di frodi nessuno potrà ingannare, e allo stesso tempo si riuscirà a strapparli da una vita rischiosa, favorendo loro i mezzi per ben proseguirla con indosso una maschera di zero per il servizio reale. Ecco un piccolo stralcio di tanti consigli che vengono dati in maniera ovviamente palesemente ironica sul fronte della realtà di un paese che qualche secolo fa era già un paese in declino sotto il profilo proprio dell'amministrazione pubblica, della capacità del paese di rispondere alle esigenze della popolazione. Testamento de España, un manoscritto del XVIII secolo edito da Liberi Libri. Invece un libro molto più, diciamo così, tra virgolette, serio, molto più reale, molto più concreto, è quello di Riccardo Brizzi e Gabriel Goodlife, che parla della Francia di Hollande, edito da Mulino. Un libro appunto che si sofferma sul problemi e sulle prospettive della Francia, del grande paese francese, dopo le elezioni del 2012, in cui François Hollande si è appunto insediato all'Eliseo e è diventato il secondo presidente socialista nella storia della Quinta Repubblica. Ecco, un potere quasi assoluto, sia anche perché appunto controlla Hollande l'Assemblea Nazionale, che però in qualche modo ha fatto segnare anche in questi mesi una caduta verticale del consenso, e non solo per i fatti, diciamo così, extrapolitici, anche perché la Francia non sembra riuscire ad affrontare con la dovuta tempestività e capacità quella crisi economica che coinvolge anche il grande paese transalpino. Quindi una visione, un'analisi molto attenta di tutta la realtà francese, della realtà politica, della specificità politica della presidenza francese e della realtà economica in questo libro, ve lo ricordo, La Francia di Hollande, a cura di Riccardo Brizzi e Gabriel Goodlife, edito dal Mulino. Sono 22 euro per poco più di 200 pagine. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, ringrazio anche Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito radio24.it. Grazie e buona serata.